Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse sono leggermente in calo a Parigi, Francoforte e anche gli Stati Uniti, meno 0,20 l'America, meno 0,60 Francoforte, meno 0,40 Parigi, positiva Londra e positiva anche Milano, più 0,20%. Grazie soprattutto a Fondiaria Sai più 11,5% e Finmeccanica più 3%. Di Finmeccanica parleremo perché è iniziato il consiglio di amministrazione più delicato da quando forse esiste questo gruppo, perché è quello in cui si andrà a discutere delle deleghe e quindi della permanenza o meno di Pierfrancesco Guarguaglini come presidente. Ne abbiamo parlato, ne hanno parlato i nostri GR, sia per indagini della magistratura, le dichiarazioni che sta rendendo l'ex o comunque quello che è stato il capo della relazione esterna Borgogni per moltissimi anni si è autosospeso, ma anche per le tensioni interne, lo scontro tra l'amministratore delegato Orsi e il presidente Guarguaglini, che non si è presentato all'ultimo consiglio di amministrazione. Guarguaglini è stato per anni anche amministratore delegato di Finmeccanica. Comunque il titolo sale sull'ipotesi appunto di un cambio dei vertici. Bene anche il Banco Popolare più 2,30, Impregilo più 2,30 e la Popolare di Milano più 2,25%, Monte dei Paschi più 2, Intesa più 2%. Devo dire, il rialzo non è così significativo per Unicredit, che guadagna solo lo 0,20%. Chi perde? Exor, la controllante del gruppo Fiat, meno 2,50%, Saipem meno 2, Campari meno 1,60%, Mediaset meno 1,6%. Allora, scusatemi, questa è la cronaca borsistica, però anche oggi la cronaca vera è quella che riguarda gli interventi, le dichiarazioni sul debito dei paesi sotto osservazione e sotto attacco, o meglio, più che attacco, ritenuti non così affidabili, Italia, Spagna, ma non solo. Varie dichiarazioni a partire da quelle del neopresidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, ma non solo, dichiarazioni anche del ministro Corrado Passera e dichiarazione del Presidente del Consiglio Mario Monti per quello che riguarda la situazione complessiva. Poi invece il Ministro Elsa Fornero è intervenuta sulla riforma delle pensioni e anche di questo parleremo. Ci occuperemo anche di buchi, ma non i buchi di bilancio, i buchi stradali. Sembrano battute, ma c'è un rapporto diffuso oggi che denuncia una situazione allarmante. Pensate che praticamente le spese quest'anno per la manutenzione stradale, per l'anno prossimo scusatemi, vengono tagliate del 30%, proprio come metri cubi di bitume per riparare, rattoppare le nostre strade. È un dato drammatico secondo l'associazione. In altri paesi, la Francia, la riduzione è stata molto più lieve, del 2%. Qui si va a un meno 30% nella manutenzione delle strade italiane, non solo per mancanza di soldi da investire da parte dello Stato, ma anche per il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione. E qui c'è una novità, ne parleremo, perché su questo il ministro Passera ha lanciato una proposta che in realtà riceve la proposta, il ricepimento della proposta di Confindustria, che è la proposta che aveva fatto l'analista, ex amministratore delegato dell'MTS, mi riferisco a Garbi, ai nostri microfoni tre giorni fa, dicendo: perché non iniziamo a pagare i debiti della pubblica amministrazione in BOT e BTP? Ecco, la proposta l'ha formalmente avanzata oggi Corrado Passera. Il ritardo nei pagamenti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di migliaia di aziende, 90 miliardi di euro nel complesso, questi 90 miliardi potrebbero essere pagati in BTP, in titoli di Stato, con il doppio effetto di migliorare il merito di credito delle imprese, perché almeno possono andare in banca e dire: guardate che io però ho un milione, mi è arrivato non in contanti ma sotto forma di titoli di Stato. E l'altro grosso effetto è quello di evitare allo Stato italiano di dover ricorrere a finanziarsi sul mercato, o perlomeno ridurre quello che è il finanziamento sul mercato. Non basterà certo questo. La scadenza più importante, la ricordiamo, è quella di fine gennaio, quando arriva in scadenza una tranche enorme del nostro debito, tra i 30 e i 40 miliardi di euro. Ci sono anche buone notizie, però, e adesso le raccontiamo. 349-238-6666 per i vostri sms. Vi confermo, visto che già lo state chiedendo, che sarà nostro ospite di nuovo l'analista che ha vinto il premio primo per la classifica Bloomberg, quello che ha saputo predire il crollo verticale dei titoli bancari e le difficoltà dei titoli bancari, non ascoltato da nessuno. Ieri l'abbiamo avuto per un tempo molto breve, avevo promesso che oggi l'avremmo riavuto. E allora andiamo subito con le notizie in breve. Sì, confermo che fine gennaio e inizio febbraio sono i mesi, anzi tutto febbraio, i mesi cruciali. Vanno in scadenza praticamente 15 miliardi di obbligazioni a gennaio, ma soprattutto c'è una maxi tranche di 25 miliardi di BTP, pensate, 16 miliardi di bot e 10 miliardi di CTZ a febbraio. Per cui 53 miliardi che l'Italia deve trovare sul mercato nel mese di febbraio, 53 miliardi. Ora capiremo come butta la situazione nelle settimane prima. È ovvio che se si arriverà a febbraio con uno spread a questi livelli o uno spread ancora più alto, la situazione butta malissimo e lì ci sarà bisogno di un intervento di emergenza totale. Se invece l'accordo che si cerca con fatica di ottenere a livello europeo dovesse essere implementato, quindi entrare in vigore, allora probabilmente i rendimenti scenderà anche lo spread, e a quel punto il collocamento dell'obbligazione non dovrebbe essere così problematico. Sì, lo so che molti chiedono di pagare anche gli onorevoli deputati senatori con i bot. Beh, si potrebbe dare una quota del loro stipendio, visto che si sono lamentati dei vitalizi, il fatto che dopo 5 anni comunque da parlamentare becchi a 65 anni 900 euro al mese, non mi sembra che ci sia molto da lamentarsi, però si può iniziare a pagare anche alcuni bonus, alcuni stipendi con i bot. Sarebbe un segno di responsabilità sapere che i deputati della Repubblica credono nella Repubblica e quindi accettano che parte dello stipendio venga pagato in BTP, per esempio. Allora, rapidamente, poco mosse oro e petrolio. La crescita cinese, dato dalla Reuters oggi, rallenterà anche di brutto. La Cina non andrà oltre l'8% nel 2012 e il 7% nel 2013. A noi sembra tantissimo, però attenzione, il 7% in Cina è la soglia minima per mantenere la coesione sociale, fonte Partito Comunista Cinese. Per cui se cresce meno del 7%, la Cina non è in grado di tenere assieme il paese. Questa è la vulgata, quantomeno, visto che ogni anno 15 milioni di persone si spostano dalle campagne verso le città. Questo è possibile con tassi di crescita così elevati. E allora adesso arriveremo anche a festeggiare una notizia molto importante, perché non c'è solo lo spread nella vita. Devo dire che io un gufo adesso però lo metto, perché mi si sono gelate i capelli, il sangue nelle vene, tutto, quando ho letto questa notizia a mezzogiorno. Il capo della Bank of England, cioè il governatore della Banca d'Inghilterra, che è una persona serissima in generale, Sir Mervyn King, ha detto, cioè il primo caso in cui una banca centrale dice questa cosa: le autorità finanziarie britanniche stanno preparando piani di emergenza di fronte alla possibilità di un default o di una rottura dell'area euro. Per cui stanno preparando le autorità finanziarie britanniche i piani nel caso fallisca l'euro. Il gufo speriamo che esorcizzi. Ripeto, vedere che il governatore della Bank of England ammette che stanno ragionando tranquillamente di un'uscita dalla, di un fallimento dell'euro, pur restando, pur facendo la tara con tutto lo scetticismo britannico nei confronti dell'euro, è una cosa che ci ha lasciato pesantemente colpiti. Vedo che adesso Milano è andata in negativo anche lei, meno 0,26%, e va bene. La buona notizia riguarda lo spread tra BTP e Bund, la differenza tra quanto costa a noi indebitarsi rispetto a quanto non costi alla Germania, che è il paese più affidabile, è sceso a 440 punti. Anche lo spread francese è sceso sotto i 100 punti, il bonus spagnolo sono a 350 punti, 440 è ancora un livello altissimo, cioè finché non rivediamo un livello 290-280 non possiamo stare tranquilli. 4,40 vuol dire che comunque il BTP a 10 anni italiano, pur essendo sceso nei rendimenti, rende tuttora il 6,68%, troppo. E la Confindustria, tramite il centro studi, oggi ha fatto il calcolo di quanto ci andrebbe a costare rifinanziare il nostro debito entro il 2013 con i BTP sopra il 7%, sono 18 miliardi di euro in più, 18 miliardi se si mantengono gli spread a questo livello in più. Scrive un amministratore comunale che ha un comune con 2 milioni di euro di avanzo ma non può spenderli, purtroppo è vero, è bloccato il patto di stabilità interno. E quindi le strade restano con i buchi, pur essendo un comune virtuoso, pur essendo un comune che ha 2 milioni di euro in cassa. Questo è un grossissimo problema. Ma vi arriveremo comunque. Mario Draghi, i prossimi giorni sono cruciali per l'area euro. Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è l'ultimo baluardo dell'euro. C'è obiettivamente in corso in Europa, continua Draghi, una stretta del credito che sta strozzando, non lo dico io, strozza il termine utilizzato da Draghi, strozza soprattutto le piccole e medie imprese. Occorre riparare il circuito del credito che ora non circola, non sta circolando denaro, le banche non prestano soldi né tra di loro né alle imprese, i governi devono recuperare credibilità finanziaria e a questo punto i rischi di un rallentamento dell'economia sono assolutamente cresciuti. Sentiamo Draghi. This autumn, tensions in financial markets have intensified again with very adverse effects. In autunno le tensioni sui mercati finanziari si sono di nuovo intensificate con delle conseguenze molto negative sulle modalità di finanziamento e sulla fiducia. I rischi di un rallentamento dell'economia sono aumentati ed è in questo contesto che la Banca Centrale ha deciso di ridurre a novembre i tassi di interesse di 25 punti base. Le misure non standard prese dalla Banca Centrale Europea hanno effetti positivi solo se limitate nel tempo. I governi devono sia individualmente che collettivamente recuperare la loro credibilità sul fronte della stabilità finanziaria. Le tensioni sul mercato delle obbligazioni del debito sovrano sono state accompagnate da un settore bancario caratterizzato da notevole stress, visto lo stretto legame tra stati e banche. Che bello l'inglese di Mario Draghi, almeno accontentiamoci di questo, anche quello di Mario Monti non è male, eh? Però andiamo, restiamo sulle cose serie. Tra l'altro Draghi ha chiesto una struttura di bilancio unica nell'area euro e quindi diciamo, un'unica politica di bilancio, un super ministro, aggiungo io, dell'economia, e ha detto Draghi non va escluso un cambiamento dei trattati europei, quindi anche su quello che deve fare la Banca Centrale Europea. Può stampare moneta, può garantire in ultima istanza i debiti dei paesi o i debiti emessi magari in Eurobond, cioè può fare la Banca Centrale Europea normale o deve solo occuparsi dell'inflazione come da statuto, per carità, come da volere tedesco, poi magari una volta facciamo anche un approfondimento su Weimar, da volere tedesco e quindi occuparsi di un non problema. Non c'è inflazione in Europa, l'unica inflazione che c'è è quella importata per i costi del petrolio, il dato di ieri era emblematico. Il resto, i beni prodotti qui e consumati qui sono spesso in deflazione, che scrivono alcuni ascoltatori. Comunque il segretario del tesoro americano Timothy Geithner incontrerà presto il presidente del consiglio Mario Monti il 7 dicembre a Milano, lo riporta la rete televisiva americana CNBC, e ancora lunedì chiaramente si apre il fronte sulle riforme italiane, riforma delle pensioni. Ne ha parlato di nuovo oggi Elsa Fornero, il ministro al welfare, ha detto arriverà entro pochi giorni il metodo contributivo pro rata, sarà una delle misure che saranno presentate lunedì, anche l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne. Sulle misure del 5 anticipo quello che sapete, cioè l'introduzione prorata del metodo contributivo che poi andrà a regime progressivamente e forse l'accelerazione di alcuni sentieri di adeguamento, per esempio sull'età delle donne, che già erano stati presi, adottati dal governo precedente. Allora, scrive un ascoltatore, basta con gli eurocrati, e chi ci mettiamo? No? Chiedo a lei, con massimo rispetto, chi ci mettiamo? La politica che si è autosospesa, si è automessa in fuorigioco? Non so, chiedo, chi mettiamo al posto degli eurocrati? Poi il tema del conflitto di interessi, lasciatemelo dire una volta per tutte, a parte il fatto che non è che il governo precedente non ne avesse, ma se devi fare un governo tecnico, dove li vai a prendere questi tecnici? Nei settori che ti interessano. Allora, se ti interessa la parte del terzo settore, prenderai uno come la comunità di Sant'Egidio, uno che ha lavorato nel terzo settore. Se ti interessa l'istruzione, cercare di prendere uno che conosca il mondo dell'istruzione. Se ti interessa la finanza e l'economia, il rapporto con tra banche e imprese, andrai a prendere un banchiere. Cioè, se sono tecnici, vengono da quel mondo lì e probabilmente torneranno in quel mondo lì, un po' come avviene anche nel mondo anglosassone. Se no, fai un governo di politici e prendi un politico, un ministro che magari la legislatura precedente era ministro all'istruzione e poi in questa legislatura diventa ministro alle attività produttive, ma quella è la politica. Se prendi i tecnici è chiaro che vengono da quei settori lì e chi ha un ruolo di peso nella sua vita per forza naturalmente ha esercitato fino a poco tempo prima un ruolo chiave in quel settore. Mica vai a prendere, col massimo rispetto, ma il direttore della banca locale per fare ministro, prenderai l'amministratore delegato. Questo cioè, avviene in tutti i paesi quando hai un governo tecnico. E a proposito del ministro Passera, pesantissimo il suo richiamo di oggi agli stati generali del commercio, rischiamo di entrare in recessione. Siamo in un momento molto difficile. Stiamo sicuramente rischiando di rientrare in recessione, di nuovo per cause non nostre, sia la prima volta 3 anni fa sia questa volta sono ragioni esterne che ci arrivano addosso, cattiva gestione di altri paesi o di altri organismi, però tant'è, questo è e questo ci sta succedendo e noi dobbiamo fare di tutto per evitare di ridiscendere come stiamo scendendo e per recuperare molto velocemente il segno positivo. E poi questa proposta di pagare i debiti che lo Stato, la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle piccole e medie imprese, 90 miliardi di euro in titoli di Stato. Adesso parliamo di Finmeccanica, però una buona notizia la voglio dare ed è veramente una buona notizia, non riguarda la finanza, non riguarda l'economia in senso stretto, riguarda diciamo persone che sono sicuramente meno fortunate di noi, mi riferisco ai bambini ma anche agli adulti con problemi psicomotori. Ve lo ricordate il caso dell'ospedale di Roma Santa Lucia, stipendi per mesi non pagati agli infermieri e ai medici che lavoravano praticamente gratis senza avere, da mesi il loro salario? Ecco, è stato siglato l'accordo tra l'azienda Santa Lucia e la Regione Lazio, l'ha fatto sapere la Regione Lazio, saranno garantiti l'assistenza ai pazienti e i livelli occupazionali, verrà riconosciuta dalla Regione Lazio alla Fondazione Santa Lucia l'importo complessivo di 50 milioni di euro, 26 milioni corrisposti entro metà gennaio 2012 a copertura dei debiti pregressi sul biennio 2005-2006 e poi questo ammontare è al netto dei 4.600.000 euro già anticipati lo scorso agosto riferiti all'anno 2009. Adesso torniamo ai temi classici. Possiamo festeggiare il fatto che la Regione Lazio ha trovato, come noi auspicavamo modestamente, un piccolissimo contributo. L'abbiamo dato anche noi, chiedendo più volte alla Polverini di intervenire in questo programma, di fare in fretta. Allora festeggiamo che Santa Lucia tornano a pagare gli infermieri, i medici e i bambini, pur con tutti i problemi che hanno. Respirano, tirano un sospiro di sollievo, dai. Brava Polverini, come l'abbiamo criticata, brava, venisse anche, noi l'aspettiamo sempre, la governatrice del Lazio. Gianni Dragoni, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Beh, una bella notizia questa da Santa Lucia, visto che tu abiti a Roma, lo conosci immagino come ospedale, come centro di... No, lo devo come dire che l'ho conosciuto per le cronache, queste vicende. Dico, conoscevi quello che stava capitando, quindi... Notizia arrivata nel mese in cui si festeggia Santa Lucia. Sì, ho capito, è vero, il 13 dicembre si festeggia anche Santa Lucia. Però con te dobbiamo parlare di un tema delicatissimo. Che cosa sta capitando in Finmeccanica? È iniziato un'ora fa il consiglio di amministrazione. Come butta? Per Guarguaglini soprattutto. Direi che la resa dei conti... La resa di Guarguaglini o la resa dei conti? Un po' diverso. Ma è una resa dei conti che passa attraverso una... anche attraverso una resa di Guarguaglini, almeno questa era come dire, la sensazione all'ingresso. Quello che forse è più ancora incerto è quale sarà la scelta del successore, del sostituto. Lui dovrebbe uscire, almeno ci si aspetta che esca dimissionario da questo consiglio, se non sarà così gli verrebbero revocate le deleghe, sarebbe sfiduciato. Allora, è ancora chiaro il dopo, come sarà, allora, il dopo, se dipende da chi verrà nominato. Allora, la vicenda la conoscete, l'inchiesta della magistratura e quant'altro. È indagato Guarguaglini per le tangenti legate agli appalti ENAV e nei giorni scorsi anche Monti ha caldeggiato un suo passo indietro. L'ipotesi della magistratura è che il gonfiare questi appalti dell'ENAV, perché l'ENAV è il cliente migliore di Finmeccanica nella parte Selex, nella parte radar e sistemi di controllo aereo, la spiego un po' così, Gianni. Però che questi appalti venissero volutamente gonfiati per poi utilizzare parte di questi soldi per prebende la politica, insomma, diciamolo, e non solo, perché entrano in gioco anche personaggi inquietanti, Mokbel e altri. Però a me è sembrato di cogliere in questi giorni, non tanto in Guarguaglini quanto nelle dichiarazioni di Borgogni, che si è autosospeso ma era il grande capo delle relazioni esterne, un tentativo di chiamare in mezzo anche altre responsabilità. Cioè, voglio dire, Orsi l'ha spinto, è noto, la Lega ed è attualmente l'amministratore delegato, ma non so, Pansa, il direttore generale, era lì anche ai tempi in cui Guarguaglini era amministratore delegato e presidente. Gianni? Sì, c'è una certa confusione che crea instabilità in questo vertice. Allora, vedendo, Orsi è da 6 mesi, dal 4 maggio è l'amministratore delegato con i pieni poteri, si chiama capo azienda della Finmeccanica, arriva dall'Agusta, l'azienda degli elicotteri, che è una delle migliori al mondo, non solo nell'aerospazio, è un'azienda eccellente, quindi ci sono dei risultati molto positivi. Naturalmente non è solo questo che ha portato questo manager a Roma, ma è stata poi la spinta politica della Lega, che oggi è all'opposizione. Quindi politicamente Orsi è più scoperto, anche se è vicino ai cattolici, all'UDC, che adesso sostiene la maggioranza, però non ha, diciamo, un sostenitore diretto nel governo. Mentre Borgogni, l'ex braccio destro di Guarguaglini, lancia, diciamo, sta tentando d'intesa con Guarguaglini, ma comunque di trascinare negli abissi anche Orsi, che ha avuto uno scontro con Guarguaglini indipendentemente dall'indagine giudiziaria. Da 6 mesi la Finmeccanica è un po' paralizzata da questo scontro di potere al vertice. E poi, nel momento in cui il governo lo deve decidere, sia il successore di Guarguaglini, sia quale può essere il futuro della Finmeccanica, ho la sensazione, dalle informazioni che trapelano, che si stia interrogando anche se lasciare che sia Orsi ad avere i pieni poteri, quindi con un presidente confermato, come può essere un ammiraglio, l'ammiraglio Venturoni. Ieri è circolata anche la voce, Radio Call ha battuto l'agenzia Radio Call ha battuto la notizia che l'ex amministratore delegato di Fiat, Paolo Cantarella, potrebbe essere in lizza, no? È così, Radio Cora ha fatto questa anticipazione, vedremo stasera qual è il nome, ma questo dimostra che il governo sta ponderando anche candidature di personaggi che probabilmente avrebbero una caratura più, un po' più operativa. Questo, se questa fosse una scelta, vorrebbe dire che forse non c'è, vogliono quasi mettere un qualcuno che agisca come controllore. Devo dire che indipendentemente adesso da Cantarella, lo analizzeremo dopo quando sarà nominato, sì, se viene messo un presidente con una caratura operativa si crea una situazione potenzialmente di nuova instabilità, perché avere due figure che debbono essere operative in genere in una società, certo, significa che poi non funzionano. Però è anche vero, con massimo rispetto per Orsi, che un po' di discontinuità va trovata rispetto al passato, cioè un gruppo bellissimo, continuo a ripetere, un gruppo che fa tecnologia, alta tecnologia, ingegneria, un gruppo di cui l'Italia può essere fiero, che ti fa ben figurare nel resto del mondo, l'abbiamo visto più volte, settore elicotteri, settore avionica, settore dell'elettronica per lo spazio, degli ali per gli aerei, dei cannoni dell'Automerala, ho capito, si fabbricano anche quelli, dei missili, dei siluri, degli elicotteri uso civile, c'è tantissime belle cose, tantissime belle cose in Finmeccanica. Ecco, il problema è proprio della governance in questo momento. Il gruppo, come tu ricordavi, è fermo. Orsi ha presentato un bilancio due settimane fa con da 220 milioni di da 320 milioni di guadagno dell'anno prima a 320 milioni di perdita, e Guarguaglini anche si è presentato, per cui insomma lì è proprio volano gli stracci, Gianni. Sì, sì, diciamo che quello che è successo anche con questi conti, io l'ho trovato sorprendente, mi ha dato l'impressione quasi di una, assistiamo spesso nelle società quando cambia il capo, quando cambia il numero uno, che chi arriva dice: ehi, ma tu mi hai lasciato uno schifo, adesso ti carico un mucchio di perdite, così io poi, per me sarà più facile il mio futuro, no? Questo è un modo, e credo che quasi lo insegnino ai manager a fare così, però ha un po' sorpreso, quasi si fosse esagerato. E la cosa curiosa è che le perdite che sono state annunciate con i conti il 14 di novembre, e il giorno dopo la borsa ha perso in un solo colpo il 20%, quindi non è che ha perso sempre per la guerra di potere, anche per questi numeri, è stato detto da Orsi e da Panza agli analisti che non è finita qui, che ci saranno altre perdite anche peggiori, sì, ferroviario, sì, sì, e nell'elettronica. Quindi Finmeccanica quest'anno dovrebbe perdere più di un miliardo, forse molto. Pazzesco. Più di un miliardo. L'anno scorso ne guadagnò 300 di milioni, il titolo ha perso il 64% da inizio anno in borsa, oggi appunto sta salendo, sta salendo invece, adesso arriviamo alla borsa, nell'attesa appunto. Però attenzione, che quando parliamo dei gruppi non parliamo solo dello scontro Guarguaglini e Orsi, che comunque è uno scontro milionario, nel senso che comunque queste persone sono pagate bene, hanno bonus milionari. Questo è un gruppo che ha 75.000 addetti, di cui 12.000 in America, 10.000 in Francia, 4.000 in Inghilterra, ma gli altri sono in Italia. Per questo bisogna salvare il gruppo Finmeccanica. Grazie a Gianni Dragoni. Vedo alcune critiche, tanto oggi non mi metterete di cattivo umore perché hanno salvato il Santa Lucia, e fino alle 18.30 il mio umore resterà assolutamente sereno. Salvare un ospedale come Santa Lucia ci fa stare meglio a tutti. Meteo, pubblicità, poi la borsa, meno 0,16%. Santa Lucia lontana. Eh sì, siamo proprio contenti, lo ribadisco in maniera molto chiara, che la Regione Lazio ha trovato i soldi per l'ospedale per bambini con problemi psicomotori e anche adulti Santa Lucia di Roma. Ce ne stiamo occupando da 4 mesi. Bene, Polverini, 26 milioni di euro corrisposti entro il 16 gennaio 2012 a copertura dei debiti pregressi, e poi gli altri milioni, sono 50 milioni in tutto, gli altri 24 arriveranno invece nel corso del 2012. Questa è la bella notizia, la buona notizia di oggi. Torniamo invece alla visione della crisi. Abbiamo sentito in apertura la dichiarazione, a mio avviso, da far gelare il sangue nelle vene, del governatore della Bank of England, che ha ammesso, primo governatore che io ricordi, che la banca centrale inglese si sta esercitando sull'ipotesi di fallimento, default dell'euro. Ha detto infatti Sir Mervyn King: le autorità finanziarie britanniche stanno preparando tutti i piani di emergenza di fronte alla possibilità di un default o di una rottura dell'area euro. e di scenari, più che di scenari economici, diciamo di come venga vista la crisi dell'euro e la crisi dei debiti sovrani dei paesi che ne fanno parte dai premi Nobel mondiale, beh, di questo si sta parlando oggi a Venezia, oggi e domani, prima delle due giornate infatti dei Nobel Colloquia in Venice. Il tema è crisi degli stati, crescita e debito nell'era della recessione. Ascoltiamo, l'ha intervistato la nostra Silvia Menetto, il premio Nobel all'economia del 2010 Christopher Pissarides sul governo Monti, su come si sta muovendo Mario Monti. Il governo italiano sotto la guida di Monti si sta muovendo nella giusta direzione e l'accordo con i sindacati va valutato in senso estremamente positivo, perché in Italia la situazione del mercato del lavoro è difficile e va modificata. È necessario sicuramente coinvolgere i sindacati nelle misure che verranno adottate. Tutte le parti sociali dovranno essere coinvolte. Inoltre dobbiamo ricordare che siamo in recessione e non sarebbe una buona idea adottare ulteriori misure che tendano verso una maggiore austerità. È già positivo che si sia dimostrato che l'indebitamento pubblico è in via di contrazione, perché a quel punto i tassi scenderanno. Ma non c'è bisogno di maggiore austerità, perché la situazione dell'Italia non è critica come quella della Grecia. Because the situation is not as critical as it is in Greece, for example. Così appunto il premio Nobel 2010. Sta moderando molti di questi interventi il vice direttore del Sole 24 Ore, che conoscete perché è spesso nostro ospite, Alessandro Platerotti, in collegamento da Venezia. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, Pissarides in qualche modo l'ha già anticipato. Hanno paura i Nobel, quelli intervenuti oggi, che l'eccesso di rigore tedesco ci porti, diciamo, da una recessione morbida a una recessione dura, cioè che l'Europa vada a chiudere i rubinetti invece che allargarli, pur dovendo stare sotto controllo il debito, ci mancherebbe? Per una visione Bundesbank. Diciamo questo, una recessione morbida era il miglior scenario tempo fa. Una recessione dura è diventato lo scenario naturale del quadro che si è creato in Europa, non soltanto per effetto di un rallentamento e di una crisi finanziaria che si stanno un po' si sono accavallati sicuramente, ma anche, come dicevi giustamente, per effetto dei piani di rigore che sono stati varati da gran parte dei paesi europei, o almeno da quelli della fascia più debole, che è anche quella che ha creato i problemi in Europa. Quindi, diciamo così, è nell'ordine delle idee che possa esserci una recessione dura. Diverso è il problema del perché e di come se ne esce, nel senso che una recessione dura si supera se è anche favorita per rimettere in ordine i conti pubblici, per avviare una ristrutturazione, in questo senso, della spesa dei governi e anche facilitare una ripresa dell'industria. Quindi se guardiamo avanti, questa ristrutturazione è una fase di passaggio e che è diventata più dura e pesante per effetto di misure straordinarie, beh, dobbiamo metterlo nell'ordine delle cose. Abbiamo fatto tardi, si poteva fare prima. Purtroppo questa crisi ha esasperato anche i rapporti in Europa e quello che stiamo pagando in questo momento. Allora, dopo il traffico, resta con noi Alessandro, perché vorrei capire invece qual è il giudizio, quello raccolto oggi chiaramente, dei vari premi Nobel sull'atteggiamento tedesco. Anche qui capiamoci, i tedeschi fanno bene, hanno ragione nel chiedere massimo rigore, hanno a mio avviso meno ragione nel non capire che o l'Europa sta tutta assieme o non sta assieme più nessuno, e anche loro ne pagherebbero le conseguenze. Per cui sappiamo che la crisi del 29, tanto evocata, si avvita non per un eccesso di inflazione, ma perché c'è a un certo momento una chiusura dei rubinetti anche in Germania, schizza la disoccupazione e poi lì si arriva Hitler. Ma non è l'inflazione di Weimar che fa arrivare Hitler, se vogliamo mettere i puntini su lì. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, come i Nobel a Venezia vedono l'atteggiamento, la posizione tedesca. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, in collegamento Alessandro Platerotti da Venezia, dove è in corso la prima giornata dei lavori del Nobel Colloquia, che in parte di questi lavori li modera appunto Alessandro Platerotti. Alessandro, c'è, visto che molti di questi premi Nobel non sono europei, o comunque non sono né tedeschi né italiani, c'è il timore che l'eccesso di rigore tedesco, non parlo di rigore, ma l'eccesso di rigore tedesco faccia precipitare ulteriormente la situazione, faccia avvitare la recessione? Cioè, più, adesso lasciamo perdere l'aspetto della recessione perché poi sono due discorsi diversi. Più che altro il problema tedesco è che questa linea estremamente intransigente nei confronti degli altri paesi europei può giungere a un punto di rottura nel momento stesso in cui i mercati fanno da moltiplicatore delle tensioni, perché se fosse solo un processo politico si potrebbe anche gestire, ma cercare di orientare e pilotare una trasformazione dell'Europa in tempi strettissimi e sotto attacco dei mercati diventa una missione per l'euro, questo è il concetto di base. La recessione l'avremmo comunque, e tenete presente che la recessione non è uguale per tutti, perché proprio ieri sono usciti i dati di Eurostat sulla disoccupazione e abbiamo visto che la disoccupazione tedesca è scesa al minimo storico, gli ordini alle fabbriche sono più 4,5%, tutti gli indicatori macroeconomici tedeschi indicano una fase di espansione, quindi non è paragonabile nemmeno lontanamente al 29, però perché siamo in una situazione contraria, cioè la Germania si espande e c'è una parte di Europa che si contrae, quindi questa è la situazione di partenza. Detto questo, vediamo il lato positivo delle cose prima. La Germania con questa linea intransigente è riuscita ad ottenere quello che in 20 anni non siamo nessuno di noi era riuscito a fare, ovvero a costringere l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, potrei anche mettere l'Irlanda dentro, o la Francia, a fare delle riforme che non volevano fare. Cioè, il lato positivo di tutto ciò è che quella linea intransigente ci ha costretto a fare quello che non avremmo mai voluto fare, perché ha un prezzo politico, quello di intaccare degli interessi. Quindi onore alla Germania, c'è riuscita. Questo è un lato, guardate, non è secondario questo aspetto processo. Quindi vediamolo sotto il lato positivo, che è questo. Le conseguenze. Se tutti i paesi coinvolti, i paesi più deboli che hanno scatenato questa crisi, non l'ha scatenata la Germania, nel senso che la Germania l'ha aperta dicendo ora basta, mettetevi in ordine i conti perché io non pago per tutti, che è un discorso legittimo, lo avremmo fatto anche noi, in Italia lo sento tutti i giorni ormai, un discorso di questo tipo qua, ma ecco, la Germania, però qual è il punto? Se noi facciamo queste riforme presto, noi e gli altri paesi ne vediamo i risultati, la Germania è la prima a cedere sulla linea degli Eurobond, su quello che vogliamo, se non lo facciamo è evidente che c'è un paese in Europa che non vuole più accettare di dover garantire le passività del resto del club dell'euro, dei 17 paesi che fanno l'euro. Allora, come può finire? Quello che la sensazione che ho avuto io qui anche a Venezia è che si comincia a prendere atto del fatto che è normale che una banca, soprattutto come la Banca d'Inghilterra, che non stampa euro, ricordiamolo, ma stampa sterline, si prepari a un evento traumatico come la possibile rottura dell'euro. È giusto, una banca americana, inglese o comunque di qualunque paese che non ha l'euro, è normale che si prepari a uno scenario di questo tipo, perché nulla si può escludere e quindi farsi trovare impreparati finanziariamente a un evento di questo genere è folle per una banca centrale, quindi è giusto che lo faccia, non va drammatizzato. Semmai quello che si discute è, ma non è forse nei piani non l'uscita dell'Italia, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda dall'euro, che sarebbe un effetto devastante, perché 5 paesi che trovano la vecchia valuta con gli effetti che si hanno sul debito diventa ingestibile. Ma non è più facile pensare all'uscita della Germania? Io credo che c'è un consenso comune di tutti gli economisti e i Nobel che erano qua sul fatto che l'impatto minore, e non parlo di male minore, ma impatto minore sul sistema finanziario mondiale lo avrebbe l'uscita della Germania dall'euro, per un motivo molto semplice: un marco privo del peso dei paesi più deboli che sono nell'euro avrebbe una rivalutazione immediata, perché oggi nel valore dell'euro è riflesso la parte, il peso dei deboli, quindi la Germania che è virtuosa avrebbe un marco che si rafforza. Allo stesso tempo i paesi che restano nell'euro avrebbero un euro che si indebolisce per effetto dell'uscita della Germania, quindi si svaluta, svalutandosi avrebbe un effetto temporaneo, limitato, ma lo avrebbe sulle esportazioni, ci renderebbe un po' più competitivi, quindi accelererebbe l'uscita dalla recessione. Questo è il circolo che si può creare. È un bel circolo? No. A mio avviso l'obiettivo deve essere mantenere l'unità, se proprio non ci si dovesse riuscire, altre volte in passato si sono rotte l'unione monetaria, non sarebbe la prima volta. No, ma d'accordissimo con te che la Germania ha ottenuto, e vediamo poi se arriverà fino in fondo, che i paesi si impegnano a fare delle riforme. Basterebbe dire, come già ieri anticipava Angela Merkel, vabbè, se ci mettiamo dei meccanismi di pesanti sanzioni se non le fai, noi a quel punto potremmo aprire anche una riforma della BCE. Là, già. Attenzione, sì. Io credo che la Germania ormai abbia alzato un po' l'asticella, perché qui non si tratta più di stabilire le sanzioni che sono il minimo. Ora quello che si vuole è il controllo su come avviene la spesa, cioè il controllo che si chiama in termini tecnici è ante, cioè si fa prima che venga attuato, in modo che vedo se il tuo modo di spendere soldi, tu Stato, parte dell'euro, è virtuoso o no. Ora questo pone un problema aggiuntivo. Siamo pronti anche a perdere anche questa sovranità, questo dopo problema. Aver perso quello sulla moneta? E c'è un prezzo in questo senso che non è solo politico generale europeo, ma diventa un prezzo nazionale che noi dobbiamo accettare, il fatto che a Bruxelles qualcuno decida se la spesa per la sanità è quella giusta in Italia, se la spesa per l'edilizia, faccio ad esempio, o per le pensioni è quella giusta, e quindi non siamo più noi. Sì, tutto questo avendo un occhio molto attento alle scadenze che ricordavamo in apertura del programma, a gennaio 15 miliardi di euro, ma soprattutto a febbraio 53 miliardi di obbligazioni italiane, sono appunto 16 miliardi di BOT, 25 di BTP e 10 miliardi di CTZ su cui bisogna trovare dei finanziatori. È chiaro che come butta lo capiremo molto, molto prima, Alessandro, sulla base dei rendimenti e degli spread dei titoli di Stato. Per capire... Il problema vero è come è difficile valutare l'opportunità di andare in asta. Oggi quello, l'unica difficoltà, il calcolo di quello che stai facendo tu, te lo completo dicendo che sono 230 miliardi di euro quello che dobbiamo pagare, onorare in termini di cedole e di scadenza dei BOT per l'intero 2012. Di questo il 50%, quindi circa 112 miliardi grosso modo, avviene nel primo trimestre del 2012, quindi fra gennaio e marzo. Sono più di 100 miliardi. E 150 in tutto. Esatto, quindi più o meno sono quelle le cifre di cui stiamo parlando. A fine ottobre nelle casse dello Stato in termini di liquidità di attivo erano 35 miliardi di euro, per cui noi siamo stati in grado di affrontare anche queste aste forti di un attivo che c'era di cassa, e quindi abbiamo, diciamo così, l'abbiamo affrontate con serenità. Diverso è il problema se continua a salire il costo del finanziamento oltre questi livelli qua, e quindi sconsiglia di andare in asta. In quel caso lì in quel caso ti blocco perché c'è anche gente in macchina e deve guidare con due mani sul volante. Grazie Alessandro Paterotti, in collegamento con noi da Venezia. Il GR, c'è anche l'analista di Mediobanca, il nostro. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi anche dopo l'intervento di Alessandro Paterotti, che ci riportava quello di cui si è discusso nella prima giornata di lavori dei Nobels Colloquia, sono incontri tra vari Nobel all'economia in corso a Venezia. Ne abbiamo ascoltato un passaggio di Pissarides su Mario Monti. Allora, è chiaro che l'ipotesi che la Germania esca dall'euro significa poi avere dei paesi dell'area euro debolissimi, con un'inflazione che aumenterebbe perché la valuta perderebbe valore. È chiaro che riusciresti a esportare di più, esporteresti di più, ed è anche chiaro che la Germania avrebbe un marco rivalutato. Non è fantapolitica, si tratta di raccontare quelli che sono i cosiddetti piani di emergenza, emergency plan, che sono allo studio in valutazione. La Banca d'Inghilterra oggi lo ha affermato in maniera molto netta, sta ragionando, come spesso fanno gli anglosassoni, in anticipo su cosa capiterebbe se l'euro andasse in default, in fallimento. Molti di voi ci scrivono che in Svizzera i giornali riportano che la Germania starebbe stampando marchi in Svizzera, non lo so, adesso non iniziamo con la fantafinanza, questa sì, non lo possiamo sapere. Le dichiarazioni del governatore della Banca d'Inghilterra sono invece un dato di fatto, perché sono pubbliche, non smentite e raccolte da tutte le agenzie. Il resto lasciamolo ai dietrologi, a chi si diletta anche sulla rete e nei vari blog, e anche sulla pagina di Facebook di Focus Economia, con ipotesi un po' fantasiose. 349-238-6666 per i vostri sms. Comunque domani su Sole 24 Ore c'è lo speciale mercati manovra, e si parlerà proprio di, nel manuale antipanico, come investire fuori dall'euro, e anche per quello che riguarda la parte invece più normativa sulla doppia stretta sulla casa, quindi i costi che arriveranno ai contribuenti. Detto ciò, la borsa. Right way. meno 0,16, poca cosa oggi. Milano faceva più 20, poi ha chiuso con meno 0,16, Parigi meno 0,80, Francoforte meno 0,80, Londra meno 0,30, l'America meno 0,30%. Non male, quindi Milano. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, che è successo a Fondiaria Sai? Allora, più 9,30%. Sì, allora Fondiaria Sai è arrivata a guadagnare anche oltre il 10%, ha beneficiato sempre dell'ipotesi relativa alla creazione di un veicolo, quindi di una società di cui probabilmente verrà ceduto il 35-40%, in cui far confluire le partecipazioni strategiche, tra cui ricordiamo ci sono quelle di In, Mediobanca, RCS e Pirelli. Il dossier, quindi il progetto, sarebbe già all'attenzione dell'ISVA, per il mercato, quindi scommette su un'accelerazione del piano che avrà l'obiettivo di riportare il coefficiente di solvibilità, quindi il livello di patrimonio del gruppo, a una soglia adeguata. Ancora c'è chi ci chiede a quant'è l'inflazione. Non c'è un problema di inflazione in questo momento nell'area euro. Ieri il dato era il 3,3% a novembre contro il 3,4% di ottobre, ma se leviamo la componente energetica e andiamo a calcolare l'inflazione core, come la chiamano nei paesi anglosassoni, quella che non dipende dalle variabili esterne, il petrolio non è un non lo decidiamo noi il prezzo, e beh, insomma, il diesel ha fatto più 15%, la benzina più 22% in un anno. Se leviamo quella componente lì, ci accorgiamo che inflazione in Europa ce n'è pochissima, e se si va avanti così si va anche verso la deflazione. Lo dico perché la Banca Centrale Europea in questo momento non può rispondere al suo unico mandato ufficiale, tenere sotto controllo i prezzi. I prezzi si tengono da soli sotto controllo, perché tutta questa voglia di spendere in Europa e in Italia in particolare non mi sembra che ci sia. Livia Zancanella, hai chiarito bene su Fondiaria Sai, Finmeccanica, ne abbiamo parlato in apertura, più 2,70%. Ci sono notizie dal Consiglio di amministrazione o no? Ancora no, nulla. Al momento no, ma è ovvio che il mercato scommette su un'uscita del presidente Guarguaglini. Oggi appunto Corrado Passera ha dichiarato che a breve ci saranno novità. Gli scenari ipotizzati quindi dalla stampa e dai vari rumor rimangono due: le dimissioni da parte dello stesso Guarguaglini o la decisione da parte dell'azionista, il Tesoro, di sciogliere l'intero consiglio di amministrazione, ma bisognerà aspettare per sapere. Sì, è iniziato alle 4:30, appunto, nessuna notizia, tu me lo confermi. Popolare di Milano più 1,85, Monte dei Paschi più 1,70%, Intesa San Paolo più 1%, Banco Popolare più 1% anch'esso, Bene di Assorin più 1,81, Impregilo più 1,76%. Monte dei Paschi ieri poi alla fine ha annunciato l'aumento di capitale. Sì, ha annunciato un aumento di capitale gratuito da 750 milioni, un aumento di capitale che è funzionale a rafforzare il patrimonio secondo i requisiti richiesti da Basilea 3. Bisogna inoltre ricordare altri due fattori: da una parte il via libera all'accordo sul debito tra l'azionista, la fondazione, Credit Suisse e Mediobanca, e dall'altra parte le rinnovate voci relative a un interesse di grandi istituti esteri per rilevare una quota nell'istituto senese. Allora, ancora per quello che riguarda invece i titoli che hanno perso oggi, Exor meno 3%, ci sono novità. Fiat ha perso l'1,41%, Exor è la finanziaria che controlla il gruppo Fiat. Fiat Auto meno 1,41%, Fiat Industrial, eccola qua, più 0,80%. Come mai Exor così pesante? Allora, non ci sono notizie per quanto riguarda Exor. Bisogna dire che il titolo ha beneficiato del rally dei listini e ha guadagnato nelle ultime tre sedute il 12,6% a mercati chiusi, quindi alle 18 sono usciti i dati sulle immatricolazioni di auto in Italia, che sono scese del 9,25% a novembre. Ancora su Mediaset, il titolo oggi è andato male, meno 1,60%, devo dire che anche Saipem ha perso il 2,50%, la Popolare Emilia Romagna il 2,20%, Campari il 2%, Mediolanum 1,90%, UbiBank meno 1,85%, Atlantia meno 1,60%, Mediaset però si muove su voci di mercato. Sì, allora praticamente la notizia è che ieri Sky Italia ha comunicato il ritiro dalla gara per l'assegnazione delle frequenze sul digitale terrestre. Il mercato quindi oggi scommette che in futuro la mossa di Sky potrebbe aprire nuovi scenari, e nell'eventuale passaggio dall'attuale asta gratuita a una a pagamento, lo scenario per Mediaset potrebbe peggiorare, poiché Sky Italia, avendo la liquidità necessaria, potrebbe diventare un vero concorrente anche in Italia del gruppo del Biscione, quindi oggi Mediaset ha perso terreno in borsa. Ancora Saras, allora ieri è andata benissimo, ma la cosa impressionante, adesso cerco anche il titolo, la cosa impressionante sono i volumi. Sì, assolutamente sì, infatti sono stati scambiati 12 milioni di azioni, solitamente ne vengono scambiate più o meno 3 milioni, quindi praticamente 3,7 volte rispetto alla media. Il titolo ha chiuso in negativo a meno 1%, ma ha guadagnato il 50% in 7 sedute e anche stamattina gli acquisti erano veramente molto forti. Il mercato scommetteva su un delisting a mercati chiusi. La società insieme all'azionista Angelo Moratti hanno comunicato che non ci sono ipotesi di delisting, ma hanno affermato che vi sono comunque rapporti anche informativi con controparti industriali per eventuali operazioni sia commerciali sia strategico-industriali, quindi delisting smentito, ma ci potrebbero essere novità a breve sul futuro della società. Un ultimo titolo, A2A, qui ancora in alto mare mi sembra la partita Italia-Francia, perché A2A è il secondo azionista dopo EDF di Edison, ha perso oggi l'1,35%, mi sembra rinviato per l'ennesima volta la decisione, no? Sì, è stata rinviata la decisione per l'ennesima volta, è stata rinviata al 30 dicembre, quindi i francesi di EDF ed Elmi, che ha A2A come principale azionista, hanno ancora tempo per valutare, quindi per negoziare il futuro della società, e la borsa comunque non ha preso bene la notizia, con il titolo che ha perso l'1,3%. Grazie a Livia Zancaner e un saluto anche a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie. Sì, avete ragione, molto bene anche Telecom Italia Media, c'è l'ipotesi dell'ingresso di un nuovo socio più 9,81%. E noi restiamo sui mercati, però un piccolissimo aggiornamento, non ce la faccio oggi a fare l'approfondimento sulle buche stradali, guardate che è un tema serissimo, un terzo di investimenti in meno in bitume quest'anno rispetto all'anno scorso, vuol dire non mantenere un terzo delle strade italiane. Mancano i soldi dello Stato, ma lo Stato è anche in ritardo sui pagamenti, 90 miliardi complessivamente deve la pubblica amministrazione. Su questo ricordo ancora quello che ha detto oggi Corrado Passera, il ministro Passera, perché ha detto va bene l'ipotesi, dopo aver detto, l'abbiamo ascoltato, che si rischia di entrare in recessione, ma è ricordato che l'emergenza numero uno del paese è l'occupazione, ha detto secondo quanto trapelato, una delle ipotesi di cui abbiamo discusso ieri con imprese, banche, assicurazioni e cooperative è l'idea di pagare questi 90 miliardi di euro che lo Stato deve per servizi o beni già resi dalle imprese private e che non gli ha ancora pagato, pagarli in titoli di Stato. E Marcegaglia oggi ha detto alla Presidente Confindustria condividiamo assolutamente la proposta, vedremo poi se sarà così e soprattutto quali saranno le caratteristiche di questo pagamento in titoli di Stato dei debiti che le imprese hanno contratto o dei crediti che le imprese hanno contratto con lo Stato. (349) 238 6666 per i vostri sms. Adesso c'è il traffico e poi torniamo in collegamento con l'analista di ieri. Ieri abbiamo avuto pochissimo tempo, chi è arrivato primo nella classifica di Bloomberg per aver saputo prevedere una cosa banale, direte voi, ma insomma lui l'ha prevista tra gennaio e febbraio, che le banche europee sarebbero crollate in borsa e che vi sarebbe stato un attacco ai debiti sovrani e anche ai debiti delle banche europee. Non fu creduto allora, nessuno l'ho preso sul serio e adesso però tutti gli danno ragione. 349-238-6666 per gli sms, ne parliamo dopo il traffico. Santa Lucia, lontana. Eh sì, no, è il nostro tormentone oggi. Siamo assolutamente contenti che, per chi si fosse perso la prima parte del programma, la vicenda di Santa Lucia, forse qualcuno se la ricorda, è mesi che la seguiamo. Ospedale di altissimo livello a Roma, con 300 pazienti, molti bambini, ma anche alcuni adulti con gravi problemi di disabilità motorie e psicomotorie. Gli infermieri e i medici non venivano pagati da mesi, manifestavano di fronte all'ospedale. Abbiamo molte volte invitato la Presidente della Regione Lazio Polverini a venire in questo programma a spiegarci perché non si riuscivano a trovare i soldi. La buona notizia di oggi è che è stato siglato l'accordo tra la Regione Lazio e l'azienda Santa Lucia. Alla Fondazione Santa Lucia arriveranno 50 milioni di euro, di cui entro il 16 gennaio 26 milioni a copertura dei debiti pregressi, e poi il resto nel corso dell'anno, 4 milioni e 600 mila sono già arrivati. Bene, bene per i bambini, bene per gli adulti e per tutti i parenti dei bambini e degli adulti lì ricoverati. C'è un'altra buona notizia che riguarda i lavoratori di Termini Merese, la fabbrica che la Fiat ha chiuso di fatto e comunque ufficialmente chiude il 31 dicembre. Anche DR Motors ha firmato l'accordo, quindi Massimo Di Risio, su cui c'era qualche dubbio sulla solidità finanziaria, ha firmato l'accordo Di Risio, e quindi a fine 2013 chi ha i requisiti andrà in mobilità incentivata, 640 lavoratori, mentre gli altri saranno assunti da DR Motors, si parla di 920 dipendenti, tutti riassunti entro la fine del 2013. Due belle notizie, non ci siamo abituati. Adesso ultimo tema, l'analista, la Cassandra poco ascoltata. Attenzione, Cassandra portava un po' di sfiga, ma aveva ragione nella vita. L'abbiamo battezzata il Ve l'avevo detto. Perché? Perché il 7 febbraio del 2011 un analista di Mediobanca, che lavora nella sede di Londra di Mediobanca, emette un giudizio molto duro, un downgrade sull'intero, un abbassamento di voto sull'intero settore bancario europeo. Nessuno raccoglie questo allarme. Da allora le banche dell'area euro hanno perso il 50% del loro valore in borsa. E ieri ci ha spiegato perché aveva espresso questo giudizio. Le banche al tempo andavano benissimo, inizio anno. Insufficienza del capitale a disposizione delle banche nei confronti di un eventuale peggioramento della crisi, le banche francesi troppo esposte sui bot BTP italiani, ma anche sui bonus spagnoli e su quelli greci. Tutto può essere puntualmente verificato. E questo è valso ad Antonio Guglielmi il primo premio nella classifica della Bloomberg, dell'agenzia di stampa finanziaria americana Bloomberg, dedicata ai migliori selezionatori di titoli nel comparto bancario. Antonio Guglielmi di nuovo in collegamento con noi da Londra, buonasera. Mi sente? Buonasera a voi. Eccoci. Allora, ieri eravamo arrivati al fatto che poi nessuno l'ha nemmeno promossa, oltre che ringraziarla, giusto? Nessuno gli ha detto abbiamo avuto... No? L'hanno promossa oggi, no? No, le promozioni non sono legate alle chiamate, no. Perché altrimenti dovrebbero, come dire, downgradarci quando le sbagliamo, per cui... Vabbè, non sarebbe male anche per voi, se sbagliate una previsione vi siete voi essere downgradati, come dice lei, però se la azzeccate. Invece veniamo alle prospettive che lei vede, visto che ieri ci eravamo fermati a questo punto. Lei ha spiegato perché già a febbraio riteneva che sarebbe arrivata una gelata su tutte le banche europee, purtroppo così è stato. Oggi la Bank of England ammette che sta, l'avrò visto anche la dichiarazione di Mary King, che sta lavorando a un piano di emergenza nel caso del fallimento dell'euro. Noi a febbraio abbiamo in scadenza 50 miliardi di debito che deve essere rifinanziato. Le risulta che tutte le grandi banche mondiali abbiano chiesto agli analisti, a tutte le parti operative, di restare al lavoro a fine dicembre? Io vado in vacanza, poi gli altri non lo so. Questa cosa non l'ho sentita, però, come dire, contribuisce al senso di emergenza che percepiamo sui mercati. Mm-hmm. Ecco, lei che previsione mi fa adesso, visto che l'ha azzeccata, è dir poco, quasi un anno fa, il suo, voi dite, sentiment, il suo giudizio sui titoli bancari qual è in questo momento? Ma guardi, a me piace, dove possibile, provare ad andare controvento. L'abbiamo capito, sì. Adesso che tutti sparano sull'ambulanza, vorrei provare a capire se invece c'è possibilità di ripresa. Dato interessante, secondo me, è che molto di quello che succederà nei prossimi mesi sui mercati dipenderà dalle vicende italiane. Quindi si tratta di attendere pazientemente qualche mese per capire come il mercato accoglierà lo sviluppo delle vicende italiane. Secondo me qualcosa nelle ultime settimane è cambiato, nel senso intanto che il governo rimane ancora sì, ma quello vuol dire in realtà molto di più, nel senso che rimane ancora vero che se l'Italia non ce la dovesse fare, allora fanno bene a lavorare a Natale e a studiarsi il break up, perché non è possibile ragionare in chiave euro senza la terza economia dell'area. Secondo me quello che è cambiato è che è anche vero il contrario adesso. Se dovessimo farcela, allora tutto il progetto di upgrade, diciamo, dell'Europa da un punto di vista di unificazione fiscale è destinato, secondo me, ad accelerare, e i segni già ci sono, perché da 3 settimane non si parla che di eurobond, di interventi a sostegno della liquidità, del fondo di emergenza, certo. Del fondo di emergenza, lei citava prima il riferimento di Passera a, come dire, utilizzare i BTP anche per come moneta di scambio. Esatto. Insomma, l'Italia secondo me sta lavorando bene, si tratta di capire quanto spazio abbiamo per dare anche uno shock al mercato, cioè questo è un mercato che ha avuto pazienza con noi per tanti anni e ora, come dire, ha visto la fiducia crollare. La domanda da porsi adesso secondo me è quanto tempo abbiamo per convincere il mercato con misure convenzionali, quelle, diciamo, semplicemente che verranno annunciate lunedì, sì, e quindi quanto credito il mercato ci possa dare nel medio-lungo termine, e quanto, come sostengo io invece, sarebbe molto utile a facilitare la cosa uno shock a breve che il mercato non si attende su riduzione del debito o su operazioni fatte... Cioè una manovra, diciamo, che vada a tagliare o comunque... consolidare, mettere sotto sicurezza, non consolidare, il debito italiano in attesa, in modo da sorprendere e spiazzare tutti, questo? No, io vado oltre, quello che lei dice è il minimo che dobbiamo attenderci, cioè un governo che metta i conti in ordine, garantisca il pareggio di bilancio. E allora, visto che siamo in chiusura, mi dica dove va lei a questo punto? Ma guardi, sono due cose: se loro mi danno interventi finalizzati a cancellare parte del debito, e quindi se quei BTP con cui Passera si fa pagare poi vengono cancellati e riduciamo il nostro stock di debito, chiaramente in cambio di altri asset che noi dobbiamo dare alle controparti, oppure l'alternativa è quella di mettere questi asset a garanzia delle emissioni che dobbiamo fare l'anno prossimo, e quindi rendiamo il nostro rollover di debito l'anno prossimo più appealing di quello che è attualmente, allora diamo al mercato un segnale di sorpresa sul quale guadagniamo tempo. Su questo serve un terzo elemento, sì, che non riguarda l'Italia o il debito sovrano, riguarda la ECB, che secondo me a breve dovrà continuare a fare molto, no, a parte quello, molto di più di quello che abbiamo visto ieri in termini di allargare i cordoni di liquidità alle banche. Grazie, vedremo se anche questa volta lei ci avrà azzeccato come analisi. Grazie e complimenti comunque, perché glielo dovevo da ieri, a Antonio Guglielmi, responsabile del team londinese di Mediobanca. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.